l'amor che muove il cielo e le sacre rote. Sarò preciso, due quadrighe sopra un velo, una piuma, un mistero, lato oscuro dell'est, del guerriero. Notte di 7 e 10, destrieri con un orecchio e le labbra rotte correvano tirando il cavaliere più bello per il cielo del drago in alto e forte come le botte. Nel paludoso e fangoso dei 7 peccatori in inferno, ficché alla fronte, giù tiravano le bestie, 10 virtù cardinali, 7 peccati mortali. Guardo come al veder due ali, mezzo angelo e diavoli, incanti e disincanti, mestieri e vanti, ebri e digiuni, canti e urli, rise e pianti. Il divino infernale, il divino celeste, tanto fea del guerriero, la veste, la toga dei mestieri celeste e di ferro la maglia d'inferno. Un serpente e un usignolo sopra il capo tireano e soprallunando vaghea al centro vestiva un tao d'equilibrio. I due animali dentro roteano il capo troppo e che si illuminea in abbaglio e al cader lacrima sacra parte sua piove agli inferi. Sopra lui vede a parte sua in cielo con pugno fiero il cielo e le aree infiammando con un ridente pianto in sogno. A me cotal piuma parea d'incanto. Con pieno pugno il cielo aereo infiammando con ridente pianto. In sogno a me cotal piuma parea un incanto. Cotal piuma parea un incanto. Cazzo incanto.